Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Il 4 aprile 1901 è una di quelle date che le patrie scritture si dimenticano di registrare. Male. Coteste date ricordano dei pacifici avvenimenti, significativi quanto delle battaglie, perse o vinte a seconda delle interpretazioni, ma nella loro modestia più tragiche di Lissa e più memorabili di Porta Pia. Lo storiografo non dovrebbe lasciar passare altri 50 anni per farsene una nozione. Cerchi, frughi, sono circostanze che la cronaca spesso tace, per caso, ma anche perché in apparenza sono episodi che non interessano la pubblica opinione. Si preparava in quei giorni il quinto concorso ginnastico nazionale. La Magona annunziava il suo primo dividendo del nuovo secolo. Infine la Nazione offriva a puntate un romanzo avventuroso dal titolo singolare e profetico, Il bandolo della matassa. Ciò allo storico potrebbe servire di illuminazione. Un filo della nostra matassa nazionale si dipanava, infatti, quel 4 aprile 1901 su un teatro romano dove, seppi il palcoscenico e la sala, si teneva il comizio dei muratori. Era il più affollato e agguerrito congresso di categoria che si fosse mai avuto. C'erano 1750 rappresentanti delle varie arti murarie. Delegati, muratori, badilanti, terrazzieri, gessisti, manovali di ogni regione. Sul palcoscenico spiccava la bandiera della società emancipatrice. Sul proscenio, nei palchi, giù in platea, era un incrociarsi di dialetti. Il Veneto si capiva col siciliano, Musumeci di Palermo con Tian di Padova, Bignardi con Cortiello, un bolognese e un napoletano. Nomi tipici, ma d'altronde c'è un punto in cui la realtà non consente trasfigurazioni. E Zanzi di Macerata, Borghesio di Torino, Grossetti di Milano, Paladino di Bari, Gemignani di Firenze, decine d'altri, erano i capi delle delegazioni. Presiedeva l'operaio Nardi. Siccome rispettava, era un primo muratore tra i più anziani, era romano, aveva provveduto all'organizzazione e pensato ad ordinare 6 porchette che avrebbero consumato finiti i lavori sui prati dietro la Lungara e Villa Corsini e su per il Gianicolo si sarebbe pagato 6 soldi la porzione. C'era un Giuseppe Rossi di Pistoia, un Giuseppe Rossi di Verona e un Giuseppe Rossi di Benevento. Sentendosi chiamare si vollero stringere la mano e bere allo stesso bicchiere. Beppe, Bepi, Peppiniello, c'era un Calabri di Arezzo e un Lombardo di Catania e un Salvatore di Como. Fu lui a tenere la relazione. Sono nomi dimenticati, oscuri anche in vita, ma che per generazioni di muratori ebbero un viso, una voce impossibile da scordare e di cui si ripetevano le parole, le esortazioni, la forza di volontà che lasciavano trasparire. Parlò Borghesio per primo. Fece la chiama e porse il saluto a nome del settentrione. Gli rispose Cortiello e poi si alzò Nardi che stava in mezzo a loro. E fu un modo di simboleggiare che c'era presente come c'era tutta Italia. E di su o di giù che fossero i loro problemi, erano gli stessi, le loro attrezzature uguali, identiche le rivendicazioni da porre e le debolezze da denunciare. Nel corso della sua relazione Salvatore disse: «L'inosservanza delle tariffe è in parte dovuta, cari amici e cari compagni, alla poca fermezza dei lavoratori che hanno ceduto agli imprenditori!» E aggiunse: «Ce lo vogliamo dimostrare?» Fu una giornata memorabile, come la nascita del primo figlio, come una liberazione dal carcere di più. Fu come tuffarsi in un elemento naturale. Mani che si stringevano e avevano uguale la ruvidezza e l'energia. Gli stessi visi bruciati, lo stesso mal d'aria, gli stessi caporali e imprenditori da maledire o da lasciare ingiudicato. Se già prima non lo sapevano, adesso erano certi di non essere soli. Questo li affratellava più di ogni mutuo soccorso. Più dello stesso partito, non c'era paragone. Ogni lega cittadino provinciale veniva a fondersi moralmente con le altre. Quante erano le mani che operavano per dare un nuovo viso alle vie e piazze d'Italia, ora, finché avessero potuto, si sarebbero stese, fraterne, da impalcatura a impalcatura e da Catania a Milano, da Musumeci a Borghezio. Dopo questo bagno d'amicizia, di solidarietà, di umano calore, di istruttive esperienze partecipate, si sarebbero sentiti invulnerabili. Erano partiti coi denari misurati al centesimo delle collette, con le ruote di pane nei fazzoletti colorati, col fiasco di vino e duetti di salame. Gli sembrò lieto l'addiaccio e volarono le ore sul treno che li riportava alle loro città. A Torino c'era Borghesio, a Napoli c'era Cortiello, a Padova c'era Tian, a Catania c'era Lombardo, a Livorno c'era Pagliai. Si sentivano moltiplicati. I delegati di Firenze con a capo Gemignani recavano con sé delle immagini e poche parole ma lapidarie. Le tariffe sono all'osso, bisogna farle rispettare. 3,40 lire. 3,5, 2,15, 1,75. Queste erano le tariffe secondo la scala del mestiere. Primo muratore, muratore, mezzo muratore, manovale. E dal momento che il pane costava 10 soldi al chilo e 10 centesimi una mescita di vino, si mangiava la carne la domenica a mezzogiorno, non tutte le domeniche. Bastava si guastasse il tempo un giorno, era finita. D'inverno gli venivano i buchi nelle gote. E piuttosto che i cristiani avrebbero preferito essere una marmotta, un tasso, un ghiro, loro e tutta la famiglia. Le tariffe bisogna farle rispettare. Borghesio era già sceso in sciopero. Dopo 2 settimane gli imprenditori torinesi avevano capitolato. I salari erano stati aumentati di 3,2 soldi. Ed era sceso in sciopero Mignardi. E anche lui aveva vinto. Era maggio, giugno, era la stagione buona e gli imprenditori ci dovevano pensare prima di vedersi deserto il cantiere. Ma Cortiello aveva resistito una settimana appena ed aveva perduto. Le creature debbono mangiare, scriveva. Per questo aveva fallito e per la poca fermezza di cui aveva parlato Salvatori. E si erano decisi loro a Firenze in giugno. Dopo 15 giorni erano dovuti tornare nei cantieri. Specie tra coloro che venivano dalla campagna, fin dai primi giorni c'erano state le defezioni. E i padroni, il commendator Fiaschi, il signor Taiuti, Maddì, gli avevano detto... Quando ve li leverete codesti grigli? Ma se i prezzi non fanno che ribassare, lavoro non ne manca, ma se preferite che si chiudano i cantieri? Passato un anno, i prezzi si erano stabilizzati e i salari erano ancora quelli, tutti di 2 o 4 soldi al di sotto delle tariffe. All'ultimo scatto nemmeno l'ingegner Badolati aveva voluto aderire e loro si riprovavano. Questa volta proprio coloro che venivano dalla campagna e dai quali un anno prima, perché facessero i crumiri, gli imprenditori avevano lasciato intravedere una ricompensa che poi non c'era stata, sembravano i più decisi. Era la domenica del 14 maggio del 2. Avevano parlamentato fino alla sera del sabato coi padroni, inutilmente. Dall'indomani sarebbero scesi in sciopero. Era sì la buona stagione, ma anche gli imprenditori si erano passati la parola da un capo all'altro d'Italia. Cortiello, malgrado le creature, ci aveva riprovato. Avevano retto 22 giorni senza successo. Paladino a Bari lo stesso, c'era scritto sull'Avanti, ne parlava anche la Nazione. Costruivano sul lungomare e ora, dopo 2 settimane di sciopero per rappresaglia, le imprese avevano sospeso i lavori. A Padova, Tiana e i suoi si erano contentati di 6 centesimi dopo 10 giorni. 6 centesimi ai muratori e 3 ai manovali, mezzo soldo tra poco. Ma bisognava tentare. Cortiello ci aveva riprovato, Paladino subiva la serrata e Pagliai a Livorno era 2 settimane e resisteva. La stagione era buona. Sospendere i lavori non conviene a tutte le imprese. E anche mezzo soldo in capo a un mese fa un diecino. Essi chiedevano 6 soldi per i primi muratori e via via 5, 4, 3 per i manovali in più delle tariffe finora retribuite. Chi non è d'accordo, disse Del Buono, alzi una mano. Yeah. Confermato lo sciopero per l'indomani, si provvide a nominare un responsabile per ciascun cantiere, colui che, dandosi l'opportunità, avrebbe parlato a nome di tutti col padrone. Tra gli altri, quelli del cantiere Madì si fidavano di Giannotto, era naturale. Così, in testa a coloro che lavoravano da fiaschi, ci sarebbe stato Corsiero che durante gli ultimi 15 anni, pur restando fedele alla sua passione per le carte e per i tre moschettieri, aveva cambiato una o due volte impresa. Loro, di Badolati, infine, li avrebbe dovuti cappeggiare Lippi, gli spettava di diritto, per i suoi capelli bianchi e perché non gli mancavano né gli argomenti né la lingua che li sapesse colorire. Ma, inaspettatamente, apprezzo la fiducia, egli disse. Ma è meglio che ci pensi Cipressino, io mi conosco, a volte mi son controllare. Metello cercò di sottrarsi a codesta investitura, ma poteva sembrare, insistendo nel diniego, che egli avesse da opporre delle riserve sullo sciopero e preferisse tacere. Va bene, accetto, disse, non vi voglio far freddare il desinare. Discesero la strada di Careggi, che il sole picchiava dall'occaso, e la polvere della strada sotto il sole era bianca come calcinata, a fissarla, accecava. Metello dava il braccio a Olindo, e Aminta, il Falorni e il ragazzo Renzoni, Renzoni piccolo, Renzoni nepote, come lo chiamavano, erano un terzetto che camminava solo. Forse proprio da essi, via via, di gruppo in gruppo, divenne un coro, si alzò l'inno «Noi vivremo del lavoro, o pugnando si morrà». Del buono era in testa a tutti, con Metello, con Giannotto, con Lippi, che trotterellava per mantenere il passo sotto il sole. Del buono lo prese a braccetto e gli dette una spuntatura di toscano. Gli occhiali gli brillavano per il riflesso del sole. Raggiunsero le prime case del Romito e Del buono gridò «Ora, zitti, zitti, ragazzi, zitti, se no si finisce prima di incominciare!» Un gruppo, con in mezzo il tedesco che ansimava, si era seduto sul muricciolo e riprendeva fiato. Si salutarono con la mano e se le strinsero quelle mani, facendosi l'un con l'altro gli auguri. «Oh, a domani, speriamo bene, ormai ci siamo, a domani!» E fu dall'indomani, e per l'epoca in cui avvenne, appunto, il 1902, e per la sua durata e gli episodi che lo caratterizzarono, uno sciopero rimasto leggendario. Durò 46 giorni e si risolse con la capitolazione degli imprenditori. Fu una grande vittoria, ma a che prezzo conquistata e in che termini sottoscritta? Fu comunque una vittoria, e per la categoria dei muratori, e per Metello in specie, e per Ersilia. Durante codesto mese e mezzo, c'entrasse o no lo sciopero, avrebbe vacillato il loro amore. L'indomani si ritrovarono davanti ai cantieri, in orario e in tenuta di lavoro, casomai i padroni ci avessero ripensato o fossero disposti a trattare. E anche perché, durante il pomeriggio della festa, e specie nel momento in cui si sarebbe dovuto attaccare, qualcuno che a Monterivecchi aveva alzato la mano poteva a sua volta aver cambiato idea. Quando Metello giunse insieme con Olindo, che era passato a prenderlo, i suoi compagni di lavoro erano lì, quasi tutti, come schierati. sedevano sotto la massicciata. Aminta si alzò e gli andò incontro. «Ingegnere non è arrivato!» C'erano di già i due caporali e l'assistente, che fumava una spagnoletta e sorrideva. Era un ragazzo fresco di studi e nipote dell'ingegner Badolati. Era arrogante, non si era fatta amare. Metello si sedé con gli altri e presto furono al completo. Erano una trentina e si allungavano seduti in una fila parallela alla fabbrica, che una volta compiuta avrebbe formato il corpo centrale di un isolato, d'angolo tra via 20 Settembre e via Vittorio. Dietro di loro, il piano stradale, prospiciente il Mugnone e non ancora adattato, formava una specie d'argine che si chiamavano la Massicciata, siccome ci avevano battuta una pista che serviva ai carri e permetteva di raggiungere il cantiere giù in basso, abbreviando il cammino. Al di là del cantiere, invece, dei terreni coltivati si estendevano per un centinaio di metri, fin dove passava la ferrovia. Il sole era alto. Davanti al passaggio a livello venne a sostare un treno. Dei giovani affacciati ai finestrini cantavano «Noi siamo i ginnasti dal braccio gagliardo, dalle agili membra, dal forte voler». Qualcuno si sporse mentre il treno ripartiva piano e gridò «Viva Firenze! Salve muratori!» Essi sedevano al riparo della massicciata. Poco lontano stavano l'assistente e due caporali. Suonò la campanella del convento di Montughi. Poi si udì il fischio del treno che entrava in stazione. Il caporale più anziano, Nardini, non era un aguzzino, era stato primo muratore. Quando una controversia si poteva appianare, se ne ingegnava. Cavò l'orologio dal taschino del panciotto e si fece avanti. L'altro caporale scosse la testa. Era un marchigiano. Lo chiamavano Crispi. I baffi gli coprivano la bocca. Era stato la spalla di Madii e aveva sperato di prendere il suo posto prima che l'ingegnere assumesse Nardini. L'assistente disse, «Nardini, cosa ci parla a fare?» Il caporale avanzò sullo sterrato e siccome essi, seduti in fila, lo guardavano di sotto in su, per un momento rimase muto. Poi disse, «Allora, batto la sirena?» «Batti, batti!» disse Lippi, il decano. «Crispi ti potrà aiutare!» «E poi ci avete l'ingegnerino!» Ma intervenne Metello. «Senti bene, Nardini, fino a qualche anno fa, correggimi se sbaglio, bazzicavi anche te alla Camera del Lavoro. Eri primo muratore sotto il Fiaschi oppure no? Dovevo arrivare a dire che allora a uno sciopero di questo genere ci saresti stato. Io non ti ho chiesto chi sono, vi ho chiesto che intenzione avete...» Si voltò, siccome l'assistente l'aveva chiamato, quindi puntò l'indice su Metello. «Qualche anno fa...» «Era qualche anno fa. C'è passato un secolo di mezzo, e nel frattempo, capitali da parte, io non ne ho messi. Ti ho forse dato del disonesto? Non l'ho nemmeno mai pensato. Soltanto ho voluto dire che hai fatto carriera. Ecco, ci siamo capiti!» Si alzò Aminta e disse, «Io no! Io non ho capito!» Metello si mise tra lui e Nardini. Anche Crispi era avanzato di un passo, e l'assistente aveva gettato la cicca. D'improvviso, dallo sgabuzzino della direzione, uscì l'ingegner Badolati. E coloro che non si erano ancora alzati si trovarono in piedi. Tutti lo salutarono. La più parte si portarono la mano al berretto. «O che si nascondeva?» esclamò il decano. «No, al contrario», disse l'ingegnere. «Ho dormito in cantiere!» Indossava la giacca d'alpagà grigia. Aveva il cappello buttato sopra la fronte e la barba trascurata. Erano passati degli anni anche per lui. Le rughe attorno agli occhi gli facevano raggiera. Ora i suoi capelli erano bianchi più che grigi, e se anche quella notte non aveva dormito in cantiere, ovunque avesse dormito, doveva aver dormito poco e male. Il suo sguardo era lo sguardo di un uomo affaticato e furibondo. Andò dritto in mezzo a loro, allontanandosi apposta, così parve, e dai suoi caporali e dal nipote. E siccome s'era fatto silenzio, la sua voce esplose con tutta la carica di indignazione ed accoramento anche che lo possedeva. Disse... «Siete dei pusillanimi, voi e chi vi comanda e vi istiga, e tu per primo, Salani, e prima di te quel finto santo del vostro del buono, vi montano la testa. Andate dietro a uno che ha sempre fatto, forse anche male dal momento che l'hanno licenziato, l'impiegato delle ferrovie. Che ne può sapere lui dei problemi dell'edilizia?» «Questo, ingegnere», lo interruppe Metello, «mi permetta, non è in modo». «Siete gente che non avete un briciolo di riconoscenza», continuò l'ingegnere e rispondendogli direttamente. «Dico in particolare proprio a te, Salani, e a tutti», aggiunse. «Non v'è bastata l'esperienza dell'anno scorso? Ci volete riprovare? Ma che cosa volete riprovare? A riempirvi di debiti? Questa volta, quando vi deciderete a tornare sui ponti, non aspettate che io vi anticipi a chi due, a chi tre, a chi quattro giornate di lavoro come feci l'altro anno, eh? Se non vi reggerete in piedi e non coprirete la norma, peggio per voi. Da me avrete quello che vi sarete guadagnate dopo che ve lo sarete guadagnato. Lo guardavano muti e piuttosto che avvicinarli si erano aperti a semicerchio davanti a lui, con Metelli in mezzo, che aveva Minta vicino e lo teneva per un braccio come si trattiene un ragazzo, ma non poté impedirgli di interloquire. «Sono tutte qui le sue parole?» E mentre il suo volto e il suo sguardo erano una fiamma sola, e tutta la sua persona sembrava come intasata, dalle corde del collo ai pugni chiusi, la sua voce, anziché aggressiva, risuonò umile, spezzata, quasi implorante. «Non ci sa dire altro che questo?» Caporale e l'assistente erano alle spalle dell'ingegnere, come delle guardie del corpo, infatti, e tanta era la fermezza del loro atteggiamento che si sarebbe detto fossero armati. Nemmeno Lippi trovò una battuta. Stava con gli occhi socchiusi, la testa piegata su una spalla, e masticava il cannuccio della pipa. Accanto a lui, piccolo Renzoni, pareva un galletto di un mese, in plume e a collo ritto. Pensò, più che non sussurrasse, «Oi, oi, si mette male!» Ma gli altri, i più, erano calmi, non intimoriti. Era anzi la furia dell'ingegnere e la caoticità insolita in lui degli argomenti che esponeva a dargli fiducia e a rafforzargli nel loro proposito. E Metello più di tutti era calmo e in grado di ragionare. Costrinse Aminta a tirarsi di lato e disse: «Ma perché, ingegnere, ci rinfaccia quelle agevolazioni? Nessuno se n'è mai dimenticato. Ma ora si tratta di un altro fatto. Vogliamo che le tariffe vengano rispettate». «Io le ho sempre rispettate!» scattò l'ingegnere. «Sono state sola a rispettarle sulla piazza! E forse hanno ragione di farmene un torto! Vi siete montati la testa!» ripeté. «Ma questa volta mi troverete più duro di Taiute e di Madì, ve l'assicuro! Dovrete venire a pregarmi in ginocchio!» E acceso in viso voltò loro le spalle, seguito dai suoi tre fedeli, raggiunse la direzione. Loro erano rimasti fermi. E v'erano questi 10 metri di distanza quando l'ingegner Badolati si arrestò sulla soglia e con un tono adesso più pacato ma severo, che voleva essere definitivo, disse: «Allora, attaccate?» «No», rispose Metello, «e ci dispiace quanto dispiace a lei, forse anche di più. Ma se lei non vuole nemmeno pigliare in considerazione l'idea di venirci incontro, siamo in ballo e balliamo. Vi mancherà presto il fiato!» Il tedesco, che fino allora era rimasto zitto in mezzo agli altri, immobile, masticando un filo d'avena, fece un passo avanti e subito, come pentito, si riportò indietro, dondolando come un elefante sui talloni. L'ingegnere gli si rivolse brusco, irato, e sembrò coglierlo di sorpresa. «Dillo!» gli intimò. «Sentiamo!» «È che ci sembra giusto, ingegnere. Lei non si deve arrabbiare», fece il tedesco con la sua voce di basso impacciata. Pareva avesse preparato un discorso e ora gli venissero a mancare le parole. «E poi...» «No, io non dico che lei dal suo punto di vista non possa aver ragione». «No, non potrei, ce l'ho!» lo interruppe Badolati. «Specialmente tu che hai girato il mondo lo dovresti sapere! Te ne accorgerete!» urlò. Era furente, protervo come non l'avevano mai visto, e certo qualcosa che andava al di là dello sciopero, del ritardo che si profilava sul programma dei lavori, della stessa compattezza contro cui urtavano le sue parole, lo doveva esaltare. Essi comunque non si chiedevano dei motivi, gli bastava considerarlo così come egli si rivelava. «Siete una massa di cenciosi!» sbatté lo sportello a vetri entrando nella direzione. Il nipote assistente lo seguì. Crispi e Nardini parvero rimanere di sentinella. Thank you. lentamente i muratori si allontanarono. Dai piedi, alla cima delle impalcature, sui ponti, i muri e le scale drizzati fino al quarto piano e deserti, e sulle baracchette che stavano al lato della costruzione, sui bidoni dell'acqua, i sacchi di cemento, le file dei mattoni, i sassi, gli attrezzi e i prati tutti intorno, fin sulla strada ferrata dai binari lucidi e argento, batteva il sole. Essi risalirono la massicciata e passo passo giunsero lungo il mugnone. Avevano le giacche sul braccio e nelle tasche sotto l'ascella l'involto della colazione. Erano le 10 ormai, e gli sembrava incredibile, se lo dicevano, di ritrovarsi a quell'ora con le mani in mano, a guardare il fondo asciutto del torrente, e dall'alto del ponticello le pecore che brucavano sugli argini, la gente che saliva e scendeva dall'omnibus alla fermata del viale, e ancora più avanti il verde dei platani, lo zampillare della vasca e le corse dei bambini nel giardino della fortezza da basso. Vi si diressero e si sparpagliarono qua e là, sotto gli alberi e sulle panchine. C'erano quelle baglie, le giovani madri, le nonne, e qualcuno di loro attaccò discorso con esse, coi giardinieri, coi vecchi di Montedomini che si godevano il giorno di libera uscita. Al di là del muro che delimitava il giardino, dentro la fortezza, squillò la tromba del rancio, ed essi aprirono gli involti e fecero anzitempo colazione. Poco dopo, come era convenuto, giunsero quelli del cantiere Fiaschi, guidati da Corsiero, e non ebbero nulla di diverso da raccontare, se non che i Fiaschi, padre e figlio, non si erano fatti vivi. E giunse Giannotto, dicendo che Madii, come Badolati, gli aveva fatto una scenata. E infine vennero quelli dell'impresa Massetani, coi quali era del buono che li aveva incontrati strada facendo. Teneva in mano una copia della difesa, fresca d'inchiostro, e che parlava di loro. Questo fu il primo giorno. Alessandro Benvenuti ha letto Metello, di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.